Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Uno dei principali motivi di inquinamento dell'ambiente è l'uso in particolare che facciamo dei detergenti che ci servono per la pulizia della casa, la pulizia dei vestiti. Ecco, ci sta creando una sensibilità oggi sia per la riduzione dell'utilizzo di questi detergenti e poi soprattutto anche dei loro contenitori che sono forse ancora più inquinanti, questi imballaggi in plastica. Sempre più spesso si trova la possibilità di acquistare ad esempio detersivi alla spina. È nato a Padova, su idea di una biologa, Enrica Sanavio, un negozio che si chiama Deterfriend nella zona di Mortise, è proprio un negozio con distributore automatico appunto di questi detergenti. Ecco Enrica, come è nata questa idea? Sì, buongiorno, io sono biologa, mi sono sempre occupata di sicurezza igienica negli alimenti e nell'ambito della mia esperienza lavorativa ho potuto conoscere tantissimi produttori di detergenti locali. Quindi mi è venuta l'idea, cioè con il motore fare qualcosa per l'ambiente, mi è venuta l'idea di creare un punto vendita automatico dove il consumatore potesse rifornirsi da solo di prodotti a basso impatto ambientale e soprattutto esenti dal flacone. Cosa vuol dire? Che io ho creato questo negozio, Deterfriend, dove la persona può venire da casa con il suo flacone oppure può prenderlo qui la prima volta, ma la fondamentale vantaggio per l'ambiente è quello che lo stesso flacone si riusa all'infinito. Questo ha un valore estremamente importante perché un amico mio chimico mi ha fatto un calcolo, mi ha dimostrato che se è pur vero che noi ricicliamo la plastica, in ogni caso nonostante il riciclo poi la materia fusa deve essere trasformata nuovamente, quindi c'è un ciclo industriale di produzione e poi di fusione, no? Questo comporta l'emissione in atmosfera di CO2 dovuti al processo di combustione, di fusione delle sostanze e per ogni etto di plastica di tipo PET si immettono nell'atmosfera 5 etti di CO2 che sappiamo essere uno di quei gas che provoca l'effetto serra con grandi danni per l'ambiente, grandi danni perché noi lo vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, il clima che cambia e quindi ci sono sempre più fenomeni di precipitazioni molto forti che provocano alluvioni e questo si riduce all'origine semplicemente con un'azione veramente piccola che è quella di ridurre all'origine l'utilizzo della plastica. Ecco, quali caratteristiche hanno i prodotti che hai scelto per questo negozio? Ho scelto dei prodotti che rispondono a un decreto del Ministero risalente al 2012 in cui sono stabilite quali sono delle sostanze che hanno un impatto negativo per gli organismi acquatici e per la vita, quindi nel mare e nei fiumi. E quindi ho selezionato dei prodotti che sono formulati con composti chimici, ma sono esenti da questa lista di sostanze tossiche. Il mio obiettivo è quello di poter inserire nei distributori automatici dei prodotti che il più possibile sono di origine organica, quindi non di sintesi chimica, ma finora io ho fatto delle ricerche per acquistare questi prodotti e hanno ancora dei costi molto elevati, quindi nel momento in cui ho tentato di fare questo negozio non potevo proporre un prodotto con a 6 euro al litro, 8 euro al litro, quindi intanto aspetto di capire se le persone sono sensibili, si rivolgono a questo tipo di acquisto e poi magari posso sviluppare con altri detergenti. Sono comunque prodotti concentrati, quindi ne basta poco, un litro di prodotto si va avanti almeno 6-7 mesi. Sì, questo è il vantaggio, il secondo vantaggio per l'utilizzo dei prodotti Dater Friend. Ho selezionato dei prodotti estremamente concentrati. Faccio un esempio: per fare una lavatrice per il lavaggio con l'ammorbidente nella lavatrice ne bastano solo 25 ml, quindi io con un litro di ammorbidente faccio 40 lavaggi. Lo stesso per una lavatrice, il prodotto Washi Dater che è Dater Friend, per la lavatrice servono 30-40 ml per fare una lavatrice, mentre siamo abituati a buttarne 80-60 ml. Ecco, quindi si ha un doppio vantaggio nell'utilizzo di questi prodotti: uno, fare qualcosa per l'ambiente; due, ho un vantaggio economico perché un litro di prodotto mi dura molto. Facciamo una pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sbadato che sono davvero, se ancora osi sensi come fanno tutti. Perché se ci penso so bene che tu sei il mio tatto, il mio gusto e poi il resto, yeah. Ma soprattutto i miei occhi, due specchi gemelli. Quando accendo un'idea è già tua. Se sogno ti sogno e l'ho fatto anche ieri, è successo anche oggi e domani accadrà. Ma già che sbadato che sono, se ancora confondo malanni e rimedi, ma in fondo è soltanto un'idea, come vedi. E non c'è neanche un angolo, né uno spigolo, una sola briciola scheggia o molecola, un punto infinito per quanto distante che non porti segno di quello che sei. Deve esserci al mondo una cosa sicura, un qualche strumento, unità di misura inventato per quello che sei. Quando accendo già tua. Se sogno ti sogno e l'ho fatto anche ieri, è successo anche oggi e domani accadrà. Ma già che sbadato che sono, se ancora confondo malanni e rimedi. Perché se ci penso so bene che senza di te questo mondo è più triste. Un'idea è già tua. Se sogno ti sogno, l'ho fatto anche ieri, è successo anche oggi e domani accadrà. Ma già che sbadato che sono, ma già che sbadato che sono, ma già che sbadato che sono. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di detergenti e di rispetto ambientale con l'uso di questi detergenti. Lo stiamo facendo con Enrica Sanavia, creatrice di Dater Friend, un negozio automatico con distributore di detergenti sfusi. Ecco, quali sono i prodotti? I detergenti possono essere tantissimi, di quali stiamo parlando in particolare? Nel negozio Dater Friend potete trovare 8 tipologie di prodotti che rispondono a tutte le necessità della casa, perché la filosofia anche mia alla base della selezione dei prodotti è che un prodotto può avere più tipi di utilizzi, quindi non bisogna riempire nelle nostre case gli scaffali pieni di detergenti, ma bastano pochi prodotti per utilizzi diversi. Quindi si trovano qui il prodotto per i piatti a mano, il prodotto per lavatrice ammorbidente, lo sgrassatore, l'anticalcare, il vetri e un prodotto specifico per la sanificazione, vale a dire detergenza e disinfezione. Questo l'ho voluto inserire per dare l'opportunità anche a chi ha un'attività alimentare, quindi una gastronomia, un bar, di poter fare self-service di un prodotto che normalmente non è diffuso in commercio, ma viene venduto tramite dei rappresentanti che forniscono un prodotto professionale specifico. Ovviamente questo cosa vuol dire? Passare attraverso un rappresentante che passa attraverso un grossista che dietro a un'azienda produttrice vuol dire un aumento di costi, mentre qui avendo una ristretta, una catena, si può trovare questo prodotto professionale a costo molto, molto basso. In più, se uno entra nel sito che è www.deterfriend.com, può scaricarsi le schede tecniche e le schede di sicurezza per ogni prodotto, che sono richieste anche da chi fa i controlli di vigilanza ufficiale per l'igiene, e quindi può avere a disposizione questi documenti che normalmente vengono richiesti. Un'ultima domanda, un'ultima curiosità: qual è il prodotto che va di più? Quale viene più richiesto e più acquistato in questo negozio? Al momento gli utenti di questo negozio sono persone che lo usano per attività domestiche, quindi il prodotto che va di più sono il lavatrice, l'ammorbidente, perché le lavatrici se ne fanno tante, il piatti, ma anche lo sgrassatore, e devo dire che va bene. Ecco, il sito internet l'abbiamo già detto, comunque lo ricordiamo, www.deterfriend.com, dove si trovano tutte queste informazioni, ma anche altre informazioni su come utilizzare bene questi prodotti e sul rispetto dell'ambiente. Se qualcuno fosse interessato anche ad aprire una qualche cosa di simile, tu sei disponibile a dare informazioni? Sicuramente, perché io non prometto che una persona aprendo questo tipo di attività potrà diventare ricco, perché non lo so, è una cosiddetta start-up, no? Una cosa che mi è nata un po' per, come dicevo, spinta dal desiderio di agire contro l'inquinamento, e se qualcuno vuole avventurarsi in questa attività, io sono veramente contenta, perché più siamo, più ci sono questi tipi di proposte, più veramente si elimina il problema dell'inquinamento dall'origine. Grazie. Concludiamo la trasmissione rimanendo sempre un po' in tema acqua, perché venerdì scorso, 28 novembre, a Chioggia si sono svolti gli Stati Generali della Pesca Veneta. I lavori congressuali si sono concentrati soprattutto sulla pesca professionale, la molluschicoltura, che è il nocciolo duro del settore ittico veneto. In base agli studi condotti quest'anno, la flotta marittima degli ultimi 12 anni ha perso quasi il 40% delle imbarcazioni. Calano anche le imprese ittiche, circa 3.000 quelle registrate nel 2013, mentre sono stazionarie quelle del settore dell'acquacoltura. Il 57% delle imprese operano nel Rodigino e l'altro 32% nel Veneziano. Nell'ultimo anno il pescato della flotta locale è stato pari a 17.500 tonnellate, con un aumento annuo dello 0,1%, quindi praticamente stazionario. Ecco, la bilancia estera invece del commercio di prodotti ittici segna un saldo negativo di 192 milioni di euro, con importazioni in aumento del 5,3%. Note sono le problematiche del settore: la carenza delle risorse ittiche, il loro sovrasfruttamento, i vincoli burocratici, la concorrenza con le marinerie della Croazia, la limitata visione imprenditoriale e le carenze organizzative fra operatori per sfruttare economie di scala e acquisire rappresentatività nel settore, l'aumento dei costi di produzione, la carenza di politiche promozionali e di marketing, ma anche l'eccessiva antropizzazione della fascia costiera. Ecco, a tutto questo imprenditori e politica dovranno cercare di dare una risposta per rilanciare il settore veneto della pesca. Anche questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.